I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Anni fa, quando i tempi erano incerti o mancavano notizie o quantomeno c'era grande tensione tra la popolazione mondiale, si ricorreva agli UFO. Avvistamenti, atterraggi, ipotesi di rapimenti e così via dilagavano sui giornali. Adesso, in questi tempi di grande incertezza, agli UFO sono subentrati i pianeti. Proprio ieri è stato scoperto infatti il settimo pianeta che è simile alla Terra, un pianeta a 40 anni luce di distanza dal nostro globo e che, secondo gli scienziati, potrebbe avere tutte le caratteristiche per ospitare un giorno la razza umana. Siamo naturalmente alla fantascienza in un periodo in cui la scienza fa un po' paura. Ma che cosa pensare? Sicuramente che c'è un gran bisogno di guardare avanti, con i viaggi spaziali bloccati, con lo shuttle ormai in pensione e con un pianeta che ormai è avvolto nelle tensioni geopolitiche, tornare a guardare le stelle e insomma un modo per guardare avanti, per cercare di distrarsi da un mondo che è sempre più confuso e da una tensione politica crescente dopo anni di tensioni finanziarie. Nel mondo non c'è certezza, ma non c'è certezza nemmeno nello spazio. Sicuramente, con il settimo pianeta, qualcuno sta cercando di riavviare un sogno. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Nel giorno del via libera alla riforma del pubblico impiego italiano c'è una notizia che arriva da 15.000 km di distanza e sembra davvero una beffa o perlomeno un paradosso. Il presidente della giapponese Panasonic, Kazuhiro Tsuga, ha imposto ai suoi 100.000 dipendenti di lavorare meno per produrre di più. Il nuovo motto che tutti gli impiegati sono invitati a seguire è diventato «siate efficienti e meno occupati». Più nel dettaglio, il presidente Tsuga sconsiglia di restare in ufficio oltre le 8 di sera e chiede di concentrare maggiormente i propri sforzi lavorativi in meno tempo. L'orario settimanale diventa così di 37 ore e 45 minuti, con un uso limitato degli straordinari fissato a 80 ore al massimo. Naturalmente ciò può accadere solo in Giappone, dove la cultura del lavoro è perno della società e dove il tempo di lavoro normalmente è tra i più stressanti del pianeta. Concentrare la propria fatica è anche questo un modo per aumentare la produttività che, come insegna sempre il caso giapponese, non è solo un fatto di presenza anche se prolungata. Tornando al pubblico impiego italiano, qui il tema si ribalta. Con le norme varate oggi, i furbetti del cartellino saranno perseguiti finalmente con severità. E anche questo sarà un modo per aumentare la produttività del personale pubblico, perché certo, per quanto si possa fare affidamento sulle filosofie orientali, se la presenza è sempre solo assenza, è davvero difficile che la produttività possa in qualche modo materializzarsi. Non ci riuscirebbe nemmeno un monaco zen. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.